via due settimane, non penso proprio, no. Vai già. E via, cosa stai usando? Duracell? Le Duracell però, capita, 4 euro in adoghiti, non lo so così se convenga, non credo che convenga. Fa la batteria scarica. Dai, metto un altro sistema e riprendo, vai. Vai già. K Roger, anda a ver. A niente sta grasso qui soffende le visioni. Mi viene a sé tutti quanti in comitiva, in riunione. Tutti mangiucchiando stanno. Basta che intendono che alcuno va vendendo, loro devono fare più chiasso di te. Però sono curiosi, almeno si danno in compagnia. Almeno fanno compagnia. Sì, comunque le batterie di adesso non servono più a niente. Io ogni volta che prendo anche le Duracell mi sembra che quelli mi sono una struttura. No, ma sto usando un microfono amplificato, ma no, non conviene più. Cioè costano 3,99 la batteria da 9 volt. 2 settimane questa qua mi ha fatto. 2 settimane. Ed è già 7,9 volt, quindi a 7,9 volt. Quindi no, non mi interessa, non mi interessa. Molto, cioè sono andando a buria pure in altre batterie, pure in altre batterie. E vabbè, avrei posso passare la macchinina. Aspetta che prendo una cosa e riprendo tra un quarto d'ora, dai. E vediamo un pochino com'è. Vai Giuseppe, mi rilancia per Gianni. Kappa. Mi sembra che tu avevi il baracchino uguale al mio, se non sbaglio. Sì, uguale al tuo. È uguale al tuo, però a quanto sembra è buriente. È buriente le batterie. Adesso io ho questo microfono, è un K-PO, K-PO, NM532. Però non andava a chi capitava la vostra. No, fissa, nel Turner mi durava quasi 6 mesi la batteria, in Oga 2 chiedi, no, o 3 chiedi, assolutamente, adesso metto un'altra cosa e si rabbiderà pure la batteria. E infatti, mi sembra un po' poco, comunque io sto usando il microfono originale. Sì, ma ce l'ho anch'io l'originale, però ho fatto un settaggio per questo microfono qua, mi devo rivedere tutto, però non mi interessa, mi riguardo i parametri e ciccio. Allora, vediamo un poco, dai, ne riprendo dopo. Vai Gianni. Ehi, gappa, no, io gli ho messo, c'è una batteria dura, che ce l'avevo in un altro microfono di quelli della... aspetta, come si chiama quel microfono, tipo un F11 F23 della Midland, che c'è la musichetta anche, e niente, una dura c'è, adesso vediamo quanto dura qua, l'ho messa che è usata, però sembra che già funzioni bene, l'avevo comprata nuova, l'ho usata poche volte. Magari se è originale e funziona meglio, però tornando al discorso batterie, ne stanno facendo molte contraffatte, ne stanno facendo, perché era uscito un coso su Facebook che non so quante ne avevano sequestrato e niente, se mandando i pigiurendi con questa Europa. E infatti quello che stavo dicendo io, queste batterie non servono più a niente, le copri, dopo poco tempo si scarica. Ehi Giussi, tutta a padinare, dal governo. Adesso, stamattina stavo ascoltando più o meno un pezzo di telegiornale, ma giusto per il meteo, e ha detto che comunque il barile del petrolio era intorno ai 57-58 dollari. Però intanto a noi la benzina e il gasolio si trovate nei bagagli, come te Santo Lazzaro. Maledetti. Infatti, ringraziamo la vecchia ministra. La presidente dice che doveva levare le accise, col cavolo. Ma cosa, ma non hai sentito il discorso che gli ha fatto quel signore siciliano? L'ha fatto a pezzi. L'ha detto, tu sei andato al rifornitore e hai detto così e che, poi hai detto che 30 euro andavano allo Stato e 20 euro andavano al benzinaio. L'ha detto, al posto di abbassare le accise, desidero mantenere, e i stipendi non ne state aumentando. State aumentando tutti i beni alimentari e alla fine state portando, cioè, l'operaio e le persone di medio rango, diciamo così, cazzo niente, a diventare più poveri di prima. Cioè, se prima con la scusa c'era un po' di benessere, avanti a quanto fai a tirare a fine mese con tutte le spese tra luce, per esempio, e cose varie, in più si uno paga pure un raffitto di casa e un mezzo casino, da voi dite lavorano tutti in nero. E come fai, scusa un attimo, se no non rientri più nella quota giornaliera se uno ha famiglia con due figli. Come ti va, dici no? Bravo, ma era tutta campagna elettorale, già hai ragione che aveva fatto la pubblicità di tutti, qua, là, lì, e poi è stata in campo, ed è uguale a tutti gli altri. E infatti, che alla fine ha pigliato un barugugo a tutti quanti, però già se ne stanno rendendo conto. Che alla fine, a parte che ad ogni conferenza che anda, è sempre tutta canta a polvere di stelle con luci come tre gnomi. E a voi dite, ma alla fine già è brava. Ma cosa brava? Brava era gli altri andè, orugane che andè cuccato bari fatti su. Ma quando entrano in campo sono tutti uguali. Prima promettono e poi si adeguano, basta che gli danno l'idea. E infatti, ma se ne sono accorti anche le forze dell'ordine, sia polizia che carabinieri, ha detto che loro si fanno il lavoro per lo Stato, però Ravini pure a Edi risolto ammazzendo, nel senso che cioè, fanno di tutto e poi non hanno nessun titolo a ruolo a chi risolutamente tanta delinquenza, con tutta tanta di saienti e marmaglia che loro chiamano risorse, che cioè, come tu vai a letto la notte, cazzo di ne furani tutto quanto l'urco di ne furani questi delinquenti di aienti. E cosa vuoi fare? Boh, è un casino, devi stare sempre con l'uccio a bici come te due fanarini. Giuseppe, adesso sto usando il microfono originale, buono Sì, sembra buono. Ma è come l'altro o più bassa? No, come modulazione mi sembra tipo l'altro. È tipo l'altro, quindi va bene. Non è... Allora, guarda, ti faccio il passaggio. Fa una cortesia. Ascolta questa qua, prova, 1, 2, 3, prova radio, guarda un po', allora, questo è il microfono originale, adesso faccio il passaggio con quell'amplificato. Questo è quell'amplificato, guarda a vedere cosa cambia, prova, 1, 2, 3, 4, prova. La modulazione mi sembra quasi uguale. Questo è un po' più forte, così è? Un pochettino, sì. Ok, però l'altro è un po' più chiaro. Diciamo che sono simili. Ok, quindi metto l'originale, dai. Andave, si sente bene lo stesso. Guarda già a vedere, tu come la voce me la copi bene. Ehi Gabbi, perfetta, l'altra rimane un po' amplificata, però è simile, dai. Ma questa mi sembra migliore questa. Questa qua ti sembra migliore, così è. K Roger, mi sembra più, come hai detto tu, un po' più chiara e un po' più pulita, quella là è un po' più in risonanza, capito? Anche se ha più o meno la stessa modulazione, però si sente che è amplificato l'altro. Sì, però questa qua è un po' più salottiera, un po' più calma. Ehi, a K Roger, più dolce come modulazione questa è. Va bene. Allora lasciamo questa qua, va bene così, niente, no, è una buffonente, sì, capita, giù siamo andati alla batteria 3 che ti va, è già a terra, presa in un negozio, no, dai cinesi, non dai cinesi, ma un negozio normale. Fammi la voce. No, no, non saranno. Capita. Desidero mesi di batteria da microfono, non penso proprio. Senta della talla da buio. Vai, Giuseppe. Infatti, ma se questo non è amplificato comunque va benissimo, è perfetto. Non ci spendi soldi in batteria. No, no, questo è quello che sto usando tu, l'originale. Questo è l'originale. E allora va benissimo, ti conviene tenersi questo. Per me non cambiava niente, quasi niente. Cioè, va benissimo anche questo. E l'altra è un po' più gracchiato, un po' più forte, però non mi interessa. Non mi interessa proprio bannuta. Poi, capita. Poi sa che lo puoi anche alzare dal baracchino stesso. Sì, infatti adesso lo faccio. Vai già. Ehi, Agapparoce, adesso come ti arrivo, Giuseppe? Com'è adesso? Più forte il segnale? Sì, adesso sei più forte. E ha già steso questa specie di locomotiva. Oh, Giuseppe, adesso ho portato il MacGain a 60, Guarda a vedere se è un po' più forte. Va benissimo. Perfetto, perfetto. Boh, a pugno. Va bene, va bene. Andave. Uiuia. No, perché sa, finta che non domanda a Bani un conto, però quando cominciassi di zero omici, un po' come rompere i fattori. Sì, se poni di zero di gasolio per idrati altre cose migliori, ed è meglio. E vabbè dai, ogni tanto cosa vuoi che ti dica? Tocca sta sempre che vende denaro, da voi dite, ma i soldi non fanno, i soldi vi buoni, a chi uno se non fa denari è un casino ogni due. Ma chi sa se fa pelle ti ha attaccato già? L'ho attaccato a vedere, bene sta andando. Ma che devi sempre lasciare attaccata, chissà tu rubigli, quando accendi il baracchino devi accendere pure chissà, e poi quando vai in trasmissione metti non. Compreso, e quindi la lasci sempre attaccata, Dassa, devi viaggiare sempre con quella, tu dai retta a un macco, Dassa sempre chissà locomotiva, chi sottotreno attaccato, e quindi vai alla grande, tanto virai, drattala, e come, poi con quel vantaggio ti dura 50 anni quella valvola. Attaccala sempre, attaccala, fottitini. E infatti la sto usando e già va bene. E niente, però che ventolina li devo attaccare, che se non tocca pure il mio nuovo e nato e come ti si dici? E muzza pure mi ha dato a chi? Cavolo, scaldami. Dai, come ti porto questo presidente? Come ti porto il presidente che dai, abbiamo rimesso in sesto? Me lo scendi e me lo fai scendere, ti metto una ventolina come ho fatto nel mio, con una presa con un alimentatore a 12 volt e te lo usi. No vabbè, io adesso sto andando con ho anche io qualcosa attaccato. Però chi sono i dazi 80, chi sono i dazi, io sono in bassa potenza e sta dando 200 watt, se lo metto in alta potenza, in media potenza ne dà un bel po' e se lo pongo in alta potenza guai, non c'è da dire, però in alta potenza non lo metto mai, sempre in bassa potenza. E va bene, vai Giuseppe. Vabbè, io adesso vi lascio che la moglie sta chiamando. Buona serata, buon proseguimento di questo. Alla prossima ragazzi. Perfetto Giuseppe, dai. Alla prossima. Già siamo qua. Almeno io la domenica sera, il sabato sera, fino a una certa ora sono qua, poi se devo uscire devo mollare, però quando ci sono sarai ricontattato, così è, così è. Vai Gian. E gli agappa Roger, allora buon proseguimento Giuseppe, tante cose belle, dai, magari ci sentiamo in prossimina e ci facciamo un'altra chiacchierata, e va bene così, dai, ok, ciao Giuseppe. Appa, ciao a tutti, alla prossima. E te lo disegni, Gabi, vista là la foto, mi ha detto che ce l'avevi caricando, va bene, dai, dopo te la guardi. Comunque, già sono belle le olive, pensavo che erano più corte, invece sono micidiali. Io le ho fatte verdi, micio. Quindi, verdone. Ma va bene così. Vedo. In salata è arrivata un gutteggio che era quasi oioia. Altro che olio turisino è come ti vuole Europa. Non l'hai visto quello che ha detto quel signore l'altra volta? Adesso non mi ricordo se era dalla Spagna o da dov'era, che gli vendevano l'olio più cadente che vira, quello che usavano per le lanterne non so dove, e poi lo portavano qua, lo ritrattavano e lo mischiavano con l'olio buono, ma forse si fa sia nere dei nani, si arricchiani, tutti delinquenti Marasulfi, tutti delinquenti, cioè non ce n'è più nessuno, cioè sono tutti affandinani e affuttisti uno con l'altro. Cioè, stiamo arrivando a un punto che la gente ultimamente non si fida più di nessuno. Ma si sono ammazzati i vassalli. Vedrai da chi si mangia nell'ultimo pezzo di papiro fatto in dinà. Sapete che i culi di dinà non si può campare. Tu solo con i soldi non puoi vivere. Ma quello vabbè, un discorso mediocre, però il senso è che devi dare valore alla vita, alle cose buone. Ma si soffende l'hamburger fatto in cose in laboratorio dalla roba sintetica, baccarità, e l'hanno assaggiato e dice che è buono. Avete strangurati. Ma cosa? Ma se sono tutti una massa di delinquenti. Ma non l'hai visto l'altra volta quel video che era nella Bulgaria, che hanno fatto vedere della carne confezionata nel 2022 e nel 2023 la stavano scongelando per poi ritrattarla, ne tagliavano 1-2 centimetri e la rimettevano in commercio. Che c'era un medico professionista che l'ha detto che per forza la niente ogni ha dato tutta canta di senteria, tutta dolore di stomaco, e ogni ha dato ne ricoprava nei cacuni. Si sono avvelenati di ogni maniera. Hanno anche fatto vedere addirittura le verdure fatte, come stai dicendo tu, sintetiche, isigenesi. Yes. Maria Bunendi, una druga di cose in mezzo all'eva, come ti prendeva, deve essere in contatto con l'acqua, diventava una specie di fuglia. E facevano le coppette di verdura. Per carità, ve la viucuti, ti canta faccia ve la viucuti. Brutti vassalli, miserabili. Cioè, c'è come te l'usurano che si paccava la china e si puniva a rubare in busciacca quando fa mangiarsi un tozzo di cosa, quando era travagliente. Adesso non va bene, perché anche quell'agricoltore siciliano delle arance che l'ha tutti masinati con un gozzo, con un rotovato, perché ha detto che è inutile che lui spendeva un sacco di soldi per curare le arance e rugoso, e poi alla fine le portavano dall'Egitto o dalla Tunisia o da dove le portavano, dal Marocco. E non andava bene, perché stanno facendo grande gli altri stati e noi li sto riducendo in polpetta, vero disoffendo. Vedrai, Buruaedi, ritocca la Zultimara. Vedrai. Ci stanno portando al punto di non piantare più niente anche a noi. E vabbè. comunque. Via da Edi. E la gente si gaglia, la gente si gaglia muta, la gente salta, la gente piglia e salta, pulsanti visione e battiti di pallone. Il pallone è quello che conta di più. La dichi su, quello pallone vedi cosa esci. E infatti, cioè io sì, sono tifoso, ma a livello che... normale, se vince vince, se non vince non vince, tanto il pallone è tondo, me il pallone non ne sai mai ne c'entra. Però questa storia, cioè io una volta ho assistito a una specie di rissa in un bar, cazzo Buntigliendi, pa una squadra di calcio, chi seguito, cazzo, cioè se negavano i rucci barugalcio e poi magari devono andare a manifestare per qualcosa di lavoro e come hai detto tu e si gagliano in tutti i muti. Ma chi è una puntiglia macca, Rugalcio è una puntiglia macca, perché forse girano troppi soldi sul calcio, però pur si è di puntiglieggia ne hai, non entra nulla a me in busciacca, solo Baddini, Baddi che ti fu su Baddi della Juve o dell'Inter o di Rumina, e cosa ne hai? E poi su Baddini veri napoletani, in un senso, viva la busciacca, e che se ne affutti, se ne affutti. No, non lo so, hai ragione anche tu Gabi, perché cioè, stiamo andando in un mondo dove ce ne stanno togliendo la tranquillità. Dobbiamo rimanere sempre con i belli dritti, a chi non sai mai cosa vuole fa. E come hai detto tu, prima o poi, da chi catta un ridotto di chissà cosa, esce un fuoco o la bomba in qualche luogo. Io ve la vicuta. Ma io all'Europa avevo vissuto via la bomba, a corso di passare a Viburu io, però sai, quando non riesci più a fare, perché non hanno più il controllo della questione economica, siamo troppo, dai, il mondo è legato troppo alla questione economica, alla questione monetaria, quindi vivo un reset, capito quando tu dici reset, esatto, una bella bomba e si torna di nuovo a fare la guerra con le pietre, a costo di pignifi tutti, ma pure io, tanto soffri 2 secondi, da poi basta, non soffri più. Però così non si può più nemmeno da Taranzi. Troppo, ci stanno troppo portando all'esasperazione. Troppo, non bastano mai, 2 redditi a casa non bastano. 2 redditi a casa non bastano. Ci stanno portando al punto di prendere, andare, strangolarli e compromettersi, infatti la carriera. E niente, anche da poi succede che quando li fai mari allora giamba la cosa, dici no, quello mi ha fatto male, allora vuol dire che la popolazione si sta ribellando, però uno deve fare la cavia, capito? E sono tutti canti muti, tutti codardi, a mano in busciacca, raccoso, e intanto io vedo chi fa la casa, vedo la casa di famiglia, non paga nulla, e chi dove non paga affitto, chi dove non paga chitarra, allora tutti gli altri muti se che belli. Però quando uno sa, ci deve arrangiare da sé, rinivi come te ne catta, comunque vedrai che anche uno prima o poi a fase la vesseria e rivasi in cucina. Io so sempre di una cosa, butti, devi chiudirla in Europa, perché il difetto non è l'Italia ma l'Europa e l'Unione Europea. Noi stavamo bene quando eravamo Italia, però quello che rovina tutto è l'Unione Europea. Non è che da invagliare, non è che c'è da sbagliare. Però purtroppo la popolazione è codarda, la popolazione italiana è codarda, sarda, a chi può la Sardegna, ma la Sardegna sono tutti codardi, quasi tutti codardi, che hanno fatto la guerra dei Rurati, l'avevamo entrato dei centesimi, poi verso a Torre Auratti, ma da sapigli, a pari piccatori, vende i scioperi, vende cose, e date dei centesimi in più a chilo, basta, le sarra nella bocca e continuano a travagliare. Invece no, devo andare davanti, devi pigliare i ciumpialli, vai già. Eia, verissimo, infatti la stavo seguendo anche io la storia dei pescatori, e non va bene perché loro non sanno cosa tutto c'è dietro nel portare del pesce a casa per uno stipendio misero, chi da voi, alla fine importano sia il pesce che il formaggio da fuori e ce lo fanno pagare caro ed è tutta canta quasi cosa d'allevamento. Quindi cioè non vogliono neanche apportare la roba genuina qua che è un casino, però è perché danno sì agli enti e tutta drumendi sottare i monti che si da rugacco o iuia. È un casino perché da una parte la prima volta sembrava che Paddini che l'Ucraina era stata presa d'assalto con la scusa che lei aveva tutti questi minerali che avevano il porto, non so, di documenti, a Ravini mi sa che fa ragione Putin, e che questo è davvero un mezzo, si può dire è mezzo gaimo, ma se là sta avvero lo flash, a questo è qui davvero qualche bombetta, a vedere bastano macchine a tutti. Già l'altra volta hai visto quando ha fatto partire i droni, e dice che hanno sconfinato e non che inghidara. Mi ho sceso giù Gendi e due Trump e ti sono prendendo in barugura a tutti, perché tipo l'America è forte, ma anche la Russia già era forte. Noi gli italiani eravamo forti quando eravamo forti, però a Ravini stanno disintegrando, si sono disintegrando e pigliando il baruguru con questa presidente che avevamo, che è sempre tutta tontonata che andare i rughi. E non mi piace, questa storia non mi piace. Da voi perché il domacco di Salvino che è tutto esaurito, che prima era un coso, un pannella tutto quanto fumato, tutto quanto esaurito. Ah va, pare vendere un dogo, ma non lo può vedere nessuno. Infatti ha detto, il ponte, ma che ponte? Un ponte del labio. Ma va, Salvini, baccare dai, io sono una pedina. Sono a pedina Zelensky è un cocainomane. Zelensky è tutto quanto così chiamato, e quindi non c'è da dare il testo. Io ripeto, Zelensky vuole continuare questa guerra perché se la guerra finisce lui lo mandano via, perché la sua popolazione non lo vuole, e allora di lì per lui è la fine, non si può fare più le ville, le cose, le case, queste cose qua. Però avrà una fine, già Trump l'ha fatto a pezzi, l'ha detto, tu o ne avvini o se no sei una persona che non vale a niente. Però non l'ha compresa, ancora non le c'era la situazione di chi su che deve va, e allora è così perché ha la maggior parte dei paesi europei a suo favore e niente. Ma chissà che tu non si ciuffia. Presidente del Consiglio europeo, ma italiano, non cosa vuoi ti dica? Chissà, ci ha ambato bandiera, e non se ne riesce a comprendere di nulla. Però chissà che non gli vale un raio pure da vedovare, chissà che non gli vale un raio pure da vedovarato a tutti quanti, tutto un pari, quando sono magnè, tutti quanti un pari, arrivi una bella bomba di chi si di che io, e l'ammazia Oh già, Putin non è uno scemo, Putin non è uno scemo e Putin sa perfettamente quello che vuole quel Zelensky. E su questo qua, con questa cosa io chiudo il discorso, perché poi sembra che vuoi passare dalla parte della Russia, però secondo me verrà che cosa di sotto. Vai di nuovo e poi faccio una pausa di 10 minuti. Ehi, agappa, quando stavi modulando ci avevi qualcuno sopra parlando, lo sentivo da qua e ti buoni a buco un po' di bortante, però buono, non lo so, ma non mai, se volete entrare perché non entrate al posto di Semo Yugeni, uno lo gioco. Poi rispetto al discorso di politica, è tutta una mafia, che sono tutti delinquenti, chi da conoscendo l'Ubanessere Supremo, con la polvere di stelle, ed è male peggio di Zelensky, il presidente in urso. E poi, come hai detto tu, è meglio che chiudiamo il discorso a chi si non è, e diciamo fuori dai figli. Avanti chi vuole entrare, buonasera. Avanti chi vuole entrare con la buonasera, e uno. Avanti chi vuole entrare con la buonasera, e due. Avanti chi vuole entrare con la buonasera, e tre. Vabbè, non vuoi entrare, sappi che la prossima volta sarai umiliato. La prossima volta sarai umiliato, sappilo. Chiunque tu sia, non me ne frega niente, vai già. Ehi, agappa Roger, non lo so se lo sentivi o non lo sentivi, però io lo sentivo. Non lo so, poi magari non lo so se magari c'è, come ti dici, propagazione, ma non penso blu più. Del resto, come hai detto tu, se vogliono entrare basta entrare con la buonasera, non ve ne è problemi, si fanno due chiacchiere. A chi questi giochini facevo 20 anni fa, portante lì, portante là, la mia è più potente, chi da noi è potente, la vari bruciurà, lo baracchino, mai. Ma non lo vedi che lo sebito mi pare che andando è pigiurendo di aiente. Vabbè dai, discorso chiuso. Avami fumo una sigaretta, come hai detto tu, 10 minuti, una sigaretta da bui, magari ci facciamo un'altra chiacchieratina, magari entra Franco Bur, se ne ha voglia, se non è a Biden gira la televisione e mangia dei nocciolini. No. Franco è Magnendi bichutti sagli, Franco Magnendi bichutti sagli, quindi va tutta canta la bocca impacciata, non entra. Va bene, anche io mi fumo una sigaretta e poi rientro, vediamo un po' se bussa qualcuno o altrimenti sappi che sarai umiliato e poi se avrai il coraggio di entrare saranno cose tue. Riprendo subito già. Ehi, agappa, mi non lo senti, avanti che con il fischio, col fischio senza, se vuoi entra bastardo, entra miserabile, perché parli sopra di me, entra via, adesso ti ho sentito, vabbè. Oh già, e questo succede quando il papà e la mamma sono cugini, eh? Mimo, però non comprendo, uno parla o parla l'altro, schiaccia, si mette a fischiare non lo so, non va senso, proprio di nessuna logica, perché, come te che siano i bizzinidi, ma con i bizzinidi li criaduri così, va bene, dai. A parte come una sigaretta e ora si è mai inventata la giura. Ok, dai. Non posso utilizzare potenze perché ho, dei vicini che mi hanno chiesto, un vicino che mi ha chiesto perché sta facendo dei contest, quindi se aumento la potenza lo disturbo. Per oggi, se no non mi avvia, fidati che non mi avvia da fatto. Vabbè dai, vai a mare a te che t'appoggi la radio in mano, burro. Ma non è che ti tappa più di tanto, mi Gavi, io a te ti sento bene, sento a lui piccolino, Fendi Rumacu, però si può entrare basta che entri, il discorso è sempre quello. poi non lo so, magari cerca di tappare anche a me, non lo so, però non lo so, non penso che mi dappia, pure se non c'ho quasi nulla io. No, no, no, non ti tappa, non ti tappa già, tu sei sempre segnale fisso, tu sei sempre, devo andare nella mara, tu hai l'appoggiatura di mano, quindi, e questa è bella, questa ti deve scendere, più di quanto sei scarognato, perché se uno fa queste cose è scarognato. Va bene, a dopo, già, anche io mi faccio un attimo di pausa, poi rientro. Cappalo, gira dopo, va, 5 minuti, 10 minuti e... poi se entra qualcuno riprendiamo. Di radio. Chi è? Chiuda su moto zappa che non funziona, arrivi dopo di tutto quanto sbatterà addu. Troppo forte, si sì, sei sì, tutto quanto bari dentro una batida. Sto collegando il microfono ad Unis. Aspetta, là c'è un sacco di controlli, speriamo di trovarne uno decente. E mettine uno normale, tanto è inutile, se ne metti uno magari amplificato, magari se non è buono si sente male. Stamattina quando si sentiva benissimo, eri perfetto. Poi si attacchi, come ha detto Tino, un processore, ti senti male, cioè si sente un buon male, invece dall'altra maniera eri micidiale. Lo so, adesso l'ho abbassato, com'è questa? Questa è migliore, comprensibile, anda bene, dai, anda bene, mi stavamo dicendo un Gavino, dammi pure una sigaretta e... 5 minuti e poi riprendiamo, così magari ti sistemi bene il microfono e poi ci facciamo una chiacchierattina. Di Buriti che era mi va vedendo, che siamo in mano a dei delinquenti, tutto qua. No, a me mi interessa sapere se è troppo forte o come descrivere la radio, se è troppo acuta, troppa, capito? Troppo penetrante, forte, che ne so. Io sto ascoltando sull'altra, insomma, vabbè, forse vicinanza non è il massimo. Iano, arrivi troppo forte, troppo amplificato e ti senti tipo umetti di Bussudini, tipo in detonazione, troppo vortici, a livello di cose magari è troppo amplificato, quindi se l'abbassi un po' rimane più chiaro e più comprensibile, perché così quando parli si imbattono già troppo a volte. Ho capito, diciamo che vibra un po' la colonia, adesso come adesso è proprio al minimo, no, sono fatti per le bande laterali questi microfoni, però sto cercando di provarlo e vedere se come funziona in FM, infatti se andiamo in AM è ancora più basso. Così è meglio, dai, diciamo che è tollerabile. Sì, così è tollerabile, però si sente un bella risonanza dell'amplificazione. Si sente che è amplificato, eh. Aspetta, così, vabbè, ma pensa il mic gain della radio è bassissimo. Aspetta, che abbassa anche potenza. Vabbè, dai, comunque, la lascio così, al minimo. Così va meglio, più comprensibile, più comprensibile. Andava, stavo dicendo, stai modulando da piazza o da via d'Unità d'Italia in zona di... No, allora, io, beh, adesso è un po' migliorata, poi aspetta che scalda e poi vedi che migliora ancora. No, io sono in piazza, sai dove c'è Pietro Secchi, un po' più su da. Ah, gappa, dove si vedono tutte le antenne... sopra quel negozio di farina di moda. Sì, da più o meno lì. Sì, adesso le ho abbassate. Devo fare dei lavori e devo tirare su. Sì, proprio lì, più o meno lì. Andave, ma c'è anche un altro lì che c'ha delle antenne con la radio e fa radioamatori, o ci sei solo tu? Perché c'era un amico che mi ha detto, buh, mi pare che venissero due cubaciuri, vieni, una a una bassa e una a un'altra bassa. Io ho detto, non te lo so dire perché la verità no, sono da un po' che non ci passo, perché avevo avuto un problema io con la china e mani disintegrato, e quindi non sto uscendo più, non sto uscendo più, a chi ribedi non funziona, tutti no. Se noi ero stato in giro in macchina, scoppiettendi e fendi terrorismo, che non mi intendia, cioè che non mi vedia, mi intendia. Poi non lo so se hai capito chi sono. No, allora no, aspetta che sto muovendo un capo, sto bloccando. No, il tetto è tutto mio, tutte le antenne. Eccolo qua, devo bloccare il microfono. No, è tutto di un'appartenenza, è tutto lì. Andave, andave, allora già va bene così. Ui, ui, io da un po' che non ti sentivo in radio. Vabbè che l'ho accesa io ultimamente, ce l'ho, forse ve l'avrà giù un annetto, ve la sto usando, di meno anche. Se no ce l'avevo sempre nell'armadietto. E stavo pulendo un giorno, dice, tu mi dai il baracchino, ha detto. E adesso ancora viraggio, gli stava attaccuduto. Infatti mi ho comprato l'antenna e niente, lo sto usando. E va bene così, almeno ci passa un po' il tempo. Poi sono qua, c'ho anche i canarini e niente. Se no mi biglio mari, io abito ad Altas Montenni, in Varrancimenendi e niente. Tutto qui. Del resto da bui non è gioco. Non ne so, vinse che i riduttori sono tutti canti, erano voluti molti da meno rigidi riduttori, tutti delinquenti so. Tu di no, no, no, non ho capito che sì, magari ti conosco pure, ma no, non saprei cosa dire, non saprei cosa dire, comunque le antenne sono le mie, quello che tu vedi qua ci sono solo io. È il parco antenne, adesso non lo vedi, diciamo che non è che non lo vedi, rimane più basso e in fase di lavorazione. Capito? Sì. No, non ho capito che sì comunque, ma magari ci conosciamo pure, può essere, sì. Cappa Roger, cappa. Biagitti so qui, quello che fa la megana è tutta fatta e furiosa. Aspetta che blocco il tasto, ho capito adesso, ora ci compreso, sono vicino a Frank, prima da. Sì, no, le antenne sono le mie comunque, tutto, sì, ho capito che sì. So che abiti in campagna, adesso ho capito anche dove e come. Sì, sì, no, conosco un beato padre, sì, d'altronde, cosa vuoi fare? Quando uno ha un problema è un casino, non sempre i dottori riescono a trovare le cure, ma è così. Va bene, adesso io invece ho un altro problema, che ho i cavi che non funzionano e quindi niente, è rimasto tutto all'aria. Come è rimasto? Tutto all'aria. Sto aspettando, allora, qui mi manca un pezzo, sto facendomi un alimentatore. Un alimentatore, non mi ricordo più, ecco qua, va bene. Poi domani me lo consiglio, sì. Ma io ero parecchio tempo che non esco e adesso in questi giorni sono qui, cioè ho un po' di tempo e quindi ne sto approfittando. Però non so se c'è un volontà, aspetta, sto stringendo il connettore, così un po' meglio va. Andare, io già vuoi va, bisogna prenderla per com'è. Infatti, no, abito sempre sotto a Franco, abito a Sorso, in campagna, è babbo, che c'ha di Fendi e niente. Ma che in campagna più sopravvivente, perché prima riuscivo un po' a camminare, invece poi alla fine la schiena, come me l'hanno rotta, praticamente ha già avuto un problema, una vertebra, e da questo piccolo problema mi hanno disintegrato il zinco. e poi con la scusa che loro sono dottori ha detto che io avevo la mia patologia, che faccio, io sono talassemico, non faccio le trasfusioni, ma non c'entra nulla, non c'entra nulla, perché io facevo solo un incremento dei globuli rossi per rimanere con un'emoglobina stabile, però il resto della schiena me l'hanno causato loro ed è un casino e non puoi manco farli causa, che tanto è una storia bessa, è inutile che stai andando e torrendi, già non ha giù gana manco di trubiani, si ti vidi, non ne ho voglia di stare andando e tornando, e quindi più io più rilassato gioco, più tranquillo gioco e meglio è. Andiamo che era vicina su tutto. Cazzo, con la scusa mi hanno fatto temere, eccetera, eccetera. Fizze che alla fine, da una cosa di niente, deve essere che hanno messo quei ragazzini di universitari a fani e mani, disintegrato mani. Meno male che sono un ragazzo un po' ironico, eccetera eccetera, se no non gioco, si lascia da coso, si buddica meno appena e muovi, mi era stato con una cetera che spaccato un gabbo bella che su vittoria, chi si all'altro, che sono delle persone che sono un po' importanti, a chi hanno fatto pure, è diventato anche senatore un anno, quindi è un mezzo, come ti si dice, massone, un pezzo di merda, infatti hanno ragionato in sasso e l'hanno fatto a pizzi. Tu sappi che ogni volta che tu mi vedi a me, sai che gli assemi ti devono arrivare come tre fusilati, brutto passaggio. E quindi questo alimentatore come te lo stai costruendo? Potente. Aspetta, io stavo andando lì fino, non ti ho potuto rispondere prima. Sono degli alimentatori variabili, mi servono per provare il valore 0 a 40 volts. Sto facendo uno che mi servono poi per varie cose, le prove che faccio, cosa vuoi fare? È un casino, ti spiego una cosa, giusto per, siccome queste dottore ne vedono oioi di gente così, capito, perché siamo pieni di problemi tutti, per me diventa una cosa normale, capito, loro ne vedono tanti, quindi è una cosa in un modo diverso. Ecco perché, però non sempre si riesce, poi ognuno è diverso dall'altro, quindi le mie cure vanno bene per uno, vanno bene per l'altro, e non credo che se avessero una cura, non credo che lo facciano apposta, capito? Ma cosa, chi sono tutti quanti delinquenti, ti danno una cura per andare a peggiorare, perché sennò poi non ci vai più da loro, non hai compreso come ti funziona la sanità, se curano un paziente poi loro non lavorano, e invece non lo curano, beh, e ridateni cose, bada bui durrà sempre, a chi si noni, come ti vadeni, come ti dici, lipidari e rigosi a andare davanti. E con l'accusa sto guardando a tutti, cioè entri sano e te ne ci metti un altro, cioè non so che io sono lo primo me, non ne guardo niente, però è inutile che con la scusa che quello lì per esempio c'ha un percorso regionale di nani a chi alla fine paga la regione e tu ne approfitti e come ti veda Edu vedere di nà, non funziona così, o sei un medico onesto oppure sei un medico che lavora solo per speculare sopra i soldi, a chi non andare ne vede questi grossi, non andare ne vede, è inutile che tu gli dai badini un accontentino di una bastiglia a vani e da pure di chi non andava bene ne ridai una più forte, finta a puccarlo a diventare bavoso e a puccarlo a tracinone i barirucchi. Non funziona così, e quindi io che in questo campo ci sono da quasi 47 anni che sono con questa mia patologia che non ha niente, a me non mi ha mai causato nessun problema, né nessun coso, né con gli amici né con nessuno, però funziona così, la sanità funziona così, sono tutta una massa di delinquenti. Non so cosa dire, comunque è un casino, è come i soldi, cambiarsi i denari, e così sono i problemi, capito? Adesso sto usando un altro microfono, questo è più chiaro, no? Ma è sempre troppo forte, sempre troppo forte. Io invece come ti arrivo? Bene ti arrivo. No, non è male, segnale. Arrivi bene perché sei sopra di me, quindi non te ne dico. Ma se mi confronto adesso devo fare il paragone con un altro per capire come la tua modulazione. Però va bene, questo è... insomma, sono un po' diverse le radio. E come dire, non so se sei mai andato da fare così. Ehi, agappa, agappa. Ma sto usando una radietta di 15 di tutto, mi c'ho un Alan 68, c'ho mi originale. È un microfono, invece c'ho un MP4, ma niente di particolare. E l'antenna va giù una Sistenheim, chissà che è in fibra di vetro, che la chiamano canna da pesca. Quella mi ho comprato dalla fabbrica. Sì, ho capito. Vabbè, comunque, vabbè, è importante parlare. Io non le uso le apparecchiature qua. Io ho un Connex 3006, come baracchia, forse ne ho un paio, poi gli altri li avevo tutti dati via da anni fa. Adesso ho qualcosina di diverso, ma vabbè, io ripeto, già lo sai, è tutto un altro mondo. È così, vabbè, l'importante è che ci ascoltiamo. Ma andate, vabbè, adesso sto usando quello di prima, che l'ho chiuso il connettore, quindi lo lascio così. E intanto so che in banda laterale è tremendo, capito? Spinge parecchio, quindi va bene così. Andare. Va bene, dai, ci aggiorniamo, che mi chiudo un po' tutto questo ambaradà che ho qui aperto. Ci aggiorniamo. Ok, andare, andare, da. Quando è già su Green Radio io, tanto l'accendo la mattina, e quando c'è qualcuno ci facciamo una chiacchierata. Va bene così, Vanni, andava bene. Ok, ciao, e vabbè, io insomma l'accendo quando posso. No, vabbè, ma io l'accendo anche perché magari poi qualche volta metto in AM, se vuoi girare magari i granari, tanto va 34 granari, chi se non è che va. L'altra radio che avevo, ne avevo una, un VHF, avevo una... Yaisu mi barichira, non mi ricordo, e l'ho venduta a un signore di Sassari, l'ho venduta a 100 euro, nuova nuova, tanto alla fine era radio amatoriale, non entrava nessuno, era una radio di 2 metri, niente, gliel'ho data ed era contentissimo, e vabbè, vuol dire che magari andano a dare, viene a comprare giù una buona che c'ha tutte quante le funzioni, SSB, AM, FM, eccetera eccetera, e adesso uso questa, già va bene, anda bene, tutta originale, perfetta, anche se è un po' vecchiotta, però già va bene così, dai, nel caso è se ci facciamo un'altra chiacchierata, anda bene, ciao ciao. Yeah, ok, dai, ciao ciao ciao. Oh già Caparoge Gavi. Devo chiudere perché c'è qua il mio vicino che sta facendo contest in banda amatoriale e mi sta sbatterando in cibutucchi. Va bene Gavi mia, adesso mangio due pistacchi, nel caso già ci sentiamo, già non ve ne è problema. Magari se accendono la radiolina o Tino e qualcuno, magari parliamo con la radiolina, se no te la bruciano. Andave, dai, ciao Gavi. La radiolina è accesa, il diciamo in 446 sono acceso, qua devo spegnere se no magari mi fa danno, quindi devo chiudere. Sentiamo, dai, la radiolina è accesa, vabbè, tac, tac, tac, accesa. Ehi, andave, dai, K-Roger, andave. Lo Zibro. Franco, Brecco, Brecco, prova 1-3, prova Franco. Prova, sì, prova. Tino. Vai, prova. Sto cercando di fare un'altra foto, per essere più giusto. Vado a vedere come. Bella forte. È buona. Sì. microfono originale, aspetta che metto l'amplificato un attimino. No, aspetta, che abbasso, sono troppo alto di... fa un passaggio. Ok, guarda a vedere, questo è il suo mic originale, il suo microfonino, guarda a vedere. Ok, puoi cambiare. Questo è l'amplificato, guarda a vedere. Questa, in confronto all'altra, sai che l'altra è più bella? Questa troppi meglio alti, nonostante tu usi sempre questo, però quello là ha più meglio bassi ed è più naturale, più e sembra anche più forte, più corposa. Ok, questo qua è di nuovo originale, guarda un pochino, prova radio e prova. Questa è bella, Gavì. E allora lascio questa qua, questo qua è il suo mic originale. E sembra anche amplificata quanto l'altra. Ascoltati in cuffia, va. Sì. No, ma tu lo sai quel microfono che ho preso insieme alla radio? Quel KNM532 e via dicendo. Cioè, sta consumando una batteria ogni due settimane. Allora bisogna fare qualche cosa. Allora, a me piace questa modulazione, piace anche a te. L'altra è lo stesso, quasi alla soglia di questo, però con più medio alti. No, a me i medio alti non interessano, a me interessa che sia chiara e bella, e mi fido di te, dai. Sì, questa va bene, caffè. E allora lasciamo questa qua, lasciamo quello qua. E niente, boh, non mi è arrivato ancora nulla. Sembra che hai anche l'amplificazione alta, mi. Sì, eccolo qua, mi è arrivato. Allora, vediamo un po'. 20 volt, sì, hai fatto bene, qua nello schermino. Aspetta che tolgo. Sì, è fatto bene. 20 volte, sì. 20 volte, sì, giusto. Ehi, vabbè, ma gli attacchi, più e meno, hai notato che sono giusti? Perché quelli non me li ricordavo, Sì, sono giusti. Vedi, volt, R, sì, giusto. Perché uno è 1000 A e uno è, vedi, te lo dice anche sotto, 10 ampere, 30 millisecondi, 200 milliampere, col fusibile. No, è giusto, è fatto giustissimo. E beh, cosa dice? Mi dice 12, qualche cosa. Bassa, lo vedi che è bassa. Quello va portato a 13,8. Dammi un secondo. Quello va a 13,8, quello va a 13,8 anche 14 volte. Ok, allora stavo aprendo il padrone di casa che mi stava bussando alla porta. Aspetta che ho dei vocali da ascoltare un secondino di lavoro.